Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, ciao a tutti. Quante opere d'arte bellissime che abbiamo, perché non aggiungerci un po' di suono? E farle rivivere. Una bella idea. E poi andiamo a parlare del microscopio in vivo. Sai quante sorprendenti scoperte si possono fare con questo nuovo tecnologico strumento? Sì, davvero sorprendenti. C'è un libro di cui vi parleremo, Parola di Scienziato. Via! Partiamo! Uno guarda un quadro e poi sente una musica. Sente dei rumori, più dei, che rumori altro, anche. Dei quadri che, certo, rivivono un dei pochino suoni. Attraverso i suoni. Proviamo a fare un esperimento con gli ascoltatori. Come se li portassimo ad un museo, all'interno di una mostra temporanea, magari su Leonardo, ecco, o anche il titolo della mostra, Leonardo da Vinci, l'uomo universale, una mostra che si è tenuta a Venezia, alle Gallerie dell'Accademia. E lì è avvenuto. E lì è venuto il fattaccio. Allora, facciamo un esperimento e poi lo facciamo commentare al nostro ospite. Sentite questo suono. Allora, gli ascoltatori non mi potranno rispondere, ma tu, Federico, che sensazione stai provando? Beh, è abbastanza forte, è un galoppo. Pio, È un galoppo di cavalli, galoppio, sì, di cavalli. Bene, introduciamo il nostro ospite e ci facciamo spiegare che cosa rappresentano. Allora, intanto, buonasera, benvenuto Stefano Luca. Buonasera. Lei è esperto in informatica e si occupa di didattica musicale per l'associazione Suoni Freschi, che opera nella città di Venezia per la soprintendenza, per quelli che sono i musei che appartengono appunto alla cerchia della soprintendenza di Venezia. Abbiamo sentito, dice Federico, un galoppio mi sembrava abbastanza evidente. È così? E in realtà che cosa rappresenta questo suono? Bene, ciò che ascoltiamo è una sequenza, un'accumulazione anzi di suono di galoppo di cavallo. È un processo proprio di composizione che prevede lo stratificarsi di un suono sull'altro. Ascoltiamo un cavallo in corsa, a cui se ne aggiunge un altro ancora e così via, secondo un processo non tanto lineare ma esponenziale, per raggiungere veramente un'accumulazione massima, un collasso che ci restituisce questa immagine di grande gruppo in corsa di cavalli. Ed è la rappresentazione di che cosa? Di un disegno di Leonardo da Vinci. Esatto, sotto gli occhi davanti agli occhi dobbiamo immaginare di vedere un disegno di Leonardo da Vinci, un disegno di Leonardo da Vinci che rappresenta questo gruppo di cavalli in corsa. Ecco, facciamo un altro esperimento. Audio numero 2. Qui non c'è più il galoppo, eh? E però qui sembra di essere saliti a cavallo quasi. Non so, Luca. Infatti qui questa volta sotto gli occhi c'è un'altra immagine, ancora uno schizzo di Leonardo, ma questa volta è un cavaliere. Si vede in primo piano il cavaliere sul cavallo in corsa. In questo caso il suono vuole restituire tutta la fisicità della corsa e per fare questo ci avviciniamo moltissimo al soggetto, il cavaliere al cavallo, e riusciamo ad ascoltarne proprio lo sbuffo, l'ansimare, il nitrito, il suono del galoppo sul terreno, mentre in lontananza, in secondo piano, ascoltiamo ancora una volta la corsa e la mischia distante della battaglia. C'è una composizione di altro tipo in questo caso, di figura e di sfondo, in netto contrasto. Ha incominciato a dire battaglia. E questa è una delle parole chiave. Ma andiamo con il terzo audio. Qui ci siamo. Qui c'è un combattimento in corso, Luca. Sì, qui abbiamo davanti agli occhi un'altra immagine, due combattenti che sono usciti da cavallo e si danno di sana pianta davvero con le mazze l'uno contro l'altro. E più avanti invece ascolteremo anche due cavalieri che cercano, vedremo anzi due cavalieri, perché ascoltare e vedere diventano coincidenti in questo caso. Vediamo due cavalieri che stanno cercando di disarcionarsi a vicenda. E ascoltiamo proprio tutti i suoni che accompagnano questa narrazione. Infatti possiamo vedere questi disegni come un istante congelato di una vicenda narrativa. Ecco, proviamo allora a sentire la mischia di questa battaglia, perché l'abbiamo detto prima questa parola chiave, perché stiamo parlando dei disegni preparatori, dei progetti, degli studi per la battaglia di Anghiari. Sentiamo. Sì. Ecco, qui decisamente la zuffa è totale, molto più concitata tutta la situazione, perché appunto quello che vediamo... Ho sentito un grido. Eh sì, il grido del famoso combattimento del cavaliere. Infatti, mentre la massa di cavalieri continua a combattere in lontananza, qui la massa è veramente enorme, invece in primo piano continuiamo a vedere, perché abbiamo questo sotto gli occhi, gli schizzi di Leonardo, c'è l'immagine del guerriero in un'espressione veramente di rabbia, di disperazione, di forza, e c'è il suono che vuole in qualche modo interpretare lo stato emotivo di questo personaggio, di questo primissimo piano. Ed ecco quindi l'urlo della forza, l'urlo della disperazione. Allora, questi disegni, questi schizzi si trovano in rete, quindi gli studi della Battaglia di Anghiari si possono vedere anche su internet. La Battaglia di Anghiari è un dipinto di Leonardo che chissà se mai è stato dipinto, chissà se forse è stato cancellato. Sì, niente, ci sono un po' di meno che dal Vasari. Dal Vasari ci sono diverse ipotesi, ancora non si sa. Ma dunque, procediamo. Noi abbiamo giocato con gli ascoltatori, però in realtà fa parte di un percorso didattico interattivo multimediale per avvicinare i ragazzi delle scuole all'arte. E voi avete trovato questo bel modo, insieme, dobbiamo specificarlo, alla soprintendenza, e adesso ti daremo insomma la possibilità di raccontarci che tipo di esperienza avete fatto. Sì. In effetti ci tengo anche a ringraziare appunto la sovrintendenza e in particolare la dottoressa Annalisa Parissa, responsabile dei servizi educativi, che ha reso possibile l'iniziativa e ha creato le condizioni per svilupparla. Ciò che abbiamo ascoltato è l'esito di un laboratorio che è stato sviluppato appositamente per il museo, in questo caso per l'esperienza presso le gallerie dell'Accademia. È un format innovativo che Suoni Freschi ha messo a punto, che cerca di far incontrare due obiettivi. Da un lato l'obiettivo di avvicinare i bambini al suono, alla musica, all'esperienza di creazione musicale, in modo molto intuitivo e molto accattivante. Che età? Dall'altro, che età hanno? Che età, esatto. Abbiamo avuto ragazzini delle scuole medie, nell'esperienza qui con Leonardo, mentre invece in altri casi, in altre esperienze, abbiamo avuto bambini delle scuole elementari, giovanissimi, totalmente vergini da questo punto di vista, i quali hanno appunto avuto l'occasione di avere un'esperienza di creazione sonora, ma in parallelo anche la possibilità di avvicinarsi a un bene culturale, che in questo caso il bene culturale è proprio dato da un pezzo della collezione del museo. Lo scopo è quello di far modificare la percezione del museo da parte dei bambini e dei ragazzini, che dal luogo, un luogo che custodisce queste cose vecchie, queste cose morte, queste cose silenti, ecco, diventi invece un luogo che accoglie oggetti eloquenti, qualcosa che ancora parla, che ci dice, che ci racconta. E questo avviene proprio grazie a un'attività di sound design, cioè di progettazione di suoni. Luca, solo suoni oppure anche altro? Si offre un'esperienza audiovisiva, suono e immagine. Quindi si fornisce un supporto visuale, che è questa animazione, un'animazione che è stata realizzata sulla base di questi disegni, è un supporto extra sonoro sul quale i bambini, i ragazzini vanno poi a creare la loro composizione. Possiamo immaginarci qualunque tipo di quadro, hanno di fronte un'animazione che voi fate con delle luci che vanno su vari particolari del quadro, dell'opera, no? E poi su questo si muove la creazione sonora. Forse la parte importante è far notare il dettaglio magari al bambino o al ragazzo, quindi come dicevamo prima l'urlo del cavaliere, quindi il particolare magari del volto? Sì, esatto, di volta in volta l'animazione si modifica per indirizzare i bambini verso differenti tipi di aggregati sonori, differenti tipi di esperienze. Quella di cui si parlava poco fa, e cioè del particolare, effettivamente suggerisce una composizione di tipo figura sfondo, il dettaglio, mentre al contrario nel frattempo posso ascoltare simultaneamente lo sfondo, e questo è un tipo di tecnica compositiva. Nello stesso tempo invece abbiamo anche sperimentato con l'animazione la possibilità di mettere in evidenza ora un cavallo, ora un altro ancora, e fornire quindi un ritmo visuale che è diventato poi un ritmo anche sonoro. Ci dica se sbagliamo, ma il risultato di tutto questo, Luca, è che il bambino tornando a casa forse non si dimenticherà mai più il disegno della Battaglia di Anghiari. Questo è un po' l'obiettivo, sì. Forse, perché vivendo un'emozione e un'esperienza così intensa anche dal punto di vista sonoro, credo che sia un po' questo poi il riassunto della vostra attività. E poi potrebbe essere applicato a tantissime opere, quindi a quel punto c'è un avvicinamento molto vasto a quella Federico che è la storia dell'arte. Federico vorrebbe sentire i suoni dell'ultima cena, ecco, ve lo dico, ve lo anticipo. Luca, se potete lavorare su questo, potete venirci a trovare qui a Milano, insomma, Federico sogna. Ecco. Molto volentieri, organizzeremo un'animazione anche su questo dipinto, va bene, volentieri. Velocissimi in conclusione, dicevamo che l'arte figurativa forse è più facile, non lo so, suonarla e animarla attraverso i rumori e i suoni, ma per l'arte contemporanea invece è molto più difficile. Anche per l'arte contemporanea c'è questa possibilità ed è difficile, dipende se riusciamo a creare in qualche modo una linea guida che consenta ai ragazzini di avvicinarsi in modo semplice alla creazione sonora. E abbiamo avuto un'esperienza anche in questo caso, sempre grazie alla sovrintendenza, in occasione di una mostra recentemente allestita alla Cadoro a Venezia nell'autunno del 2013, sono state esposte alcune opere di arte contemporanea abbastanza complesse dal punto di vista proprio della fruizione. Tuttavia si è cercato di poter dare ai ragazzini una chiave di lettura che i ragazzi hanno usato poi per la fase di creazione sonora successivamente in laboratorio. Lei ci ha fornito un esempio, facciamone uno, forse magari qualche ascoltatore conoscerà Mimmo Rotella, che è questo artista che componeva, strappava i manifesti, locandine anche di film famosi, sono notissimi quelli con Marilyn Monroe e così via, creava delle lacerazioni, degli strappi. Strappava. Tanto che in mostra, se non erro, c'era un'opera che si chiamava Lacerazioni verticali e voi siete riusciti a dar suono anche a quella. La facciamo sentire agli ascoltatori? Ecco, Luca, se ci può commentare questo suono di carta. È lui che strappa, direi. Sì, sta strappando, proprio questo. È ciò che abbiamo invitato i ragazzini a fare, cioè cercate di riprodurre con i suoni la tecnica di realizzazione, questo décollage, questo strappo. Mentre l'animazione, anche in questo caso un'animazione ad hoc su misura per mettere in scena, rappresentare questo dipinto, ci porta di volta in volta su un particolare, su un altro ancora, ecco che i suoni ci raccontano come veniva realizzata con questi strappi. Quanto è lungo lo strappo? È breve? È di lunga durata? Ce lo dirà proprio l'animazione, che ci di volta in volta ci focalizza l'attenzione su uno strappo più piccolo o più lungo. Oppure al contrario, possiamo anche sentire di sottofondo tutto il suono delle carte accartocciate che ci ricorda il materiale, che è secondo livello questo di interpretazione, con che cosa è stato fatto? Carta, e quindi tutti i suoni di carta cartocciata, di cartoni e di strappi. Qui mi viene da commentare, perché si potrebbe pensare, per adulti insomma, che va bene, vedo un quadro di un personaggio che so che strappava per fare appunto queste opere, strappava dei posteri, dico vabbè, insomma la congiunzione è evidente, però invece in un ragazzino o ragazzina molto piccoli, certo, non è immediato. Esatto, questo fatto di fare delle opere in questo modo, strappando, non è assolutamente un concetto banale e evidente. Con la sonorizzazione vedono, per esempio, tra virgolette, vedono come compone un artista, come lavora un artista. Sì, infatti è bene sottolineare anche che i ragazzini hanno due momenti chiave in cui si articola questa esperienza. Il primo è l'osservazione, quindi la vista guidata alle opere, durante la quale possono prendere contatto con l'opera. Vabbè, certo, e quella la devono vedere, e questo è fondamentale. E poi successivamente, subito dopo, invece entrano in laboratorio con queste suggestioni, hanno sotto mano l'animazione che rielabora l'opera appena vista e iniziano la loro attività di creazione sonora. È tutt'altro che scontato, in effetti, che la lacerazione possa produrre un'opera d'arte. Grazie a questa esperienza, loro effettivamente, come dicevi poco fa, Federico, effettivamente riescono a portarsi a casa un'esperienza, a ricordare che anche con questa tecnica è possibile creare un'opera dagli esiti veramente imprevedibili, perché questo è il décollage. Bene, grazie Luca, davvero buon lavoro, so che siete operativi adesso su altre opere, su altre esposizioni, quindi ricordiamo magari il sito www.suonifreschi.it, se non erro, sì, è il vostro riferimento. Perfetto. Ok, grazie. Per trovare anche i video e la spiegazione di questi laboratori così interessanti interattivi. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. Arrivederci. Grazie. Torniamo alle miserie della quotidianità. Vediamo cosa succede nel traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chiara, io sono sempre contentissimo quando stiamo per raccontare ai nostri ascoltatori qualcosa di strano, di sorprendente. Adesso qualcosa di sorprendente, sì. Questa cosa sta arrivando. Ci capita arrivando spesso, per fortuna. Però incominciamo un po' prima, introducendo il nostro ospite questa sera, Matteo Iannaccone. Buonasera, Iannaccone. Buonasera. Allora, Chiara, ricordo... Lei è capo unità del laboratorio dinamica delle risposte immunitarie dell'ospedale San Raffaele di Milano. Cominciamo intanto, come dobbiamo fare, ringraziarla? No, siamo contenti che sia tornato qui in Italia. Lei si è formato completamente negli Stati Uniti. Sì, io mi sono... sì, buonasera, grazie per l'invito. Io mi sono formato in Italia, nel senso che mi sono laureato in medicina a Milano. Sì. Dopodiché, però, la formazione accademica è stata tutta fatta successivamente negli Stati Uniti. Sono andato a fare un postdoc prima a San Diego, allo Scripps Research Institute, e dopodiché sono andato alla Harvard Medical School di Boston. E quindi sono stato un totale di 8 anni negli Stati Uniti. E a fine 2010 ho avuto un'offerta per rientrare all'ospedale San Raffaele. E l'ha accettata. E ho accettato entusiasticamente. Ed è rientrato però con un prestigioso premio. Esatto, con un finanziamento da parte della Fondazione Armenese Harvard, che è una fondazione che opera in Italia e negli Stati Uniti. Lei ha ricevuto finanziamento di 1 milione di euro, mi pare, no? Per la sua attività di ricerca. Assolutamente, ho ricevuto un finanziamento di $1 milione per rientrare in Italia e per aprire il mio gruppo di ricerca, e quindi questo finanziamento è stato essenziale per poter iniziare. E al San Raffaele ho trovato delle condizioni che non avevo trovato neanche negli Stati Uniti, quindi attenzione, che bella notizia, messo nelle condizioni migliori per poter lavorare. Abbiamo siamo riusciti, diciamo, a mettere in piedi un laboratorio e delle tecnologie che, appunto, come dicevo, non avevo neanche negli Stati Uniti, e quindi sono rientrato entusiasticamente. Va bene, e ha anche lavorato con il professor Guidotti del gruppo ospedaliero San Donato. Parliamo di microscopia intravitale, ce la descrive? Sì, noi in questo lavoro abbiamo utilizzato, appunto, questa microscopia intravitale o microscopia in vivo, che è una tecnica rivoluzionaria perché ci permette di vedere in tempo reale all'interno dell'organismo il funzionamento del sistema immunitario, il funzionamento delle cellule che sono coinvolte nel nostro caso nell'andare a scovare i virus e ad eliminarli. E quindi, a differenza delle tecniche di microscopia tradizionali, che sono tecniche statiche, noi possiamo proprio filmare in presa diretta, diciamo, quello che avviene all'interno dell'organismo. E questo è un po', diciamo, la differenza che passa tra cercare di capire per esempio le regole del funzionamento del gioco del calcio a partire da fotografie scattate da bordo campo, rispetto invece ad avere la possibilità di poter guardare un'intera partita. Certo. Bella differenza. E quindi si riesce a capire come i giocatori interagiscono tra di loro per portare la palla in rete. Certo, anche con 1000 fotografie non capiremo niente. Insomma, non capiremo ben poco. Nel mio caso i giocatori sono i globuli bianchi che stanno cercando di andare a scovare il virus. Ecco, quindi immaginiamo già l'assetto rivoluzionario che ha portato questo strumento, questa tecnologia di cui lei ne va fiero, giustamente, che ospita nei laboratori. E giustamente manteniamo anche il sinonimo delle regole del gioco, perché voi avete utilizzato queste regole del gioco per studiare, insomma, una malattia piuttosto tosta, insomma, l'epatite B. Assolutamente, noi studiamo l'epatite B. Questa è causata da un virus che si annida nel fegato, che replica nelle cellule del fegato e esclusivamente in queste cellule, ma che replica senza portare danno all'organismo, danno al fegato, cioè replica in maniera silente. E quello che provoca il danno al fegato e i sintomi della malattia è in realtà il sistema immunitario, una particolare classe di globuli bianchi che si chiamano linfociti citotossici, che vanno nel fegato per cercare di distruggere il virus, però hanno degli effetti collaterali che quindi portano a distruzione delle cellule sane e quindi provocano i sintomi della malattia. Voi, facendo dei video che, se non sbaglio, possono anche durare qualche ora, avete visto un comportamento particolare, e quello che accennavamo proprio all'inizio, decisamente sorprendente del nostro corpo umano. Che fino a qui non era stato possibile osservare. Che non si sapeva, ce lo descriva. Esattamente, quello che si pensava prima in altri organi, come per esempio la cute o l'intestino o il sistema nervoso centrale, è che per agire, per sconfiggere i virus, i globuli bianchi dovessero aderire in una porzione specifica dei vasi e uscire dai vasi sanguigni, entrare nell'organo e da lì andare a cercare le cellule infettate. Quello che abbiamo scoperto è che nel fegato le regole del gioco sono differenti, cioè le molecole che controllano l'adesione di questi globuli bianchi sono totalmente diversi. I globuli bianchi riescono a fermarsi nei vasi del fegato grazie a delle altre cellule che si chiamano piastrine, che forniscono una sorta di tappeto appiccicoso su cui loro possono fermarsi, e sorprendentemente riescono a trovare le cellule infettate dal virus senza dover uscire dai vasi. E come fanno? Quindi, pur rimanendo dentro i vasi, riescono a trovare le cellule infettate dal virus. Come fanno? È perché loro inseriscono dei piccoli tentacoli attraverso dei buchi presenti sui vasi sanguigni, che si chiamano fenestrature, e attraverso questi tentacoli sono in grado di penetrare dentro il tessuto e di andare a toccare e sconfiggere e uccidere la cellula. Allungano le manine. Insomma. Allungano le manine, esattamente, con queste dita che si infilano in questi buchi dei presenti solo nei vasi del fegato. E stanno al coperto con quelle cose appiccicose che li tengono dentro. Le piastrine. Esattamente. Ecco, esattamente. È un comportamento dei globuli bianchi che noi non conoscevamo assolutamente, neanche in altre situazioni. Esatto, è un comportamento del tutto peculiare che noi abbiamo scoperto per la prima volta grazie a queste tecniche studiando il fegato. Quindi potrà avere una grossa rilevanza per l'epatite, ma qui è venuta fuori qualcosa che potremmo andare a cercare in mille altre situazioni. Questi tentacolini sono da utilizzare, sfruttare. Assolutamente, quindi ovviamente l'idea è che appunto adesso i ricercatori iniziano a guardare anche in altri organi per cercare di capire se questa cosa avviene e noi siamo riusciti comunque anche a identificare le cellule, le molecole responsabili di questo comportamento, e quindi in prospettiva futura si può anche pensare di andare a interagire, adesso che abbiamo individuato i target molecolari e cellulari, e quindi per andare a modificare il decorso di questa malattia che comunque colpisce 300 milioni di persone nel mondo, sono cronicamente infette dal virus dell'epatite B. Quindi lei ci ha dato dei video che noi possiamo mettere sul blog di Moebius, e in questi video si vedono queste cose di cui abbiamo detto. Assolutamente sì, sono contento se li vorrete diffondere, perché proprio per la prima volta si può vedere in vivo che cosa succede, come questi globuli bianchi sono in grado di scovare. Comunque non c'è più privacy neanche per i globuli bianchi. Esattamente. Siamo entrati in casa loro. Diciamo che questa scoperta è stata presentata giovedì in conferenza stampa e naturalmente ha un rilievo mondiale. Complimenti. Grazie mille. E ancora buon lavoro. E ancora buon lavoro. Grazie per avermi ospitato. Come dico sempre in questi casi, quando bisogna parlare di libri, è uscito un libro. Questo libro si intitola Parola di scienziato, sottotitolo La conoscenza ridotta opinione. È un testo a cura di, adesso vi spiego perché a cura di, ed è a cura di Francesca Dragotto, che è una docente di sociolinguistica all'Università Tor Vergata di Roma, e di Marco Ferrazzoli, che dirige l'ufficio stampa del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, edito da Universitalia. Per parlare di questo libro, questa sera è qua con me Marco Ferrazzoli. Buonasera Marco. Buonasera a voi. E poi anche Renato Sartini. Ciao Renato. Buonasera a tutti. Giornalista, quindi collega, siamo tutti colleghi in questo appuntamento. Renato Sartini ha scritto uno dei capitoli del libro. Infatti il libro, Marco, è una collezione di vari autori che voi avete curato con un'idea, un progetto editoriale di comunicazione. Come possiamo definirlo in generale? Questo parola di scienziato che cosa vuol dire? Sulle buone e cattive pratiche della comunicazione della scienza, della ricerca scientifica, della conoscenza più in generale. Diciamo buone e cattive, anche se a dir la verità la prevalenza delle cattive è notevole. Voi sottolineate quali sono quelli, diciamo, gli aspetti più critici, più complicati, meno risolti, ecco. Nello scenario generale diciamo che c'è un rapporto irrisolto tra almeno tre elementi, che sono quelli dei produttori di conoscenza, quindi dei ricercatori, dei docenti, quello di coloro che dovrebbero essere gli intermediari, quindi i giornalisti e in generale i comunicatori, e poi quello del pubblico che dovrebbe ricevere le informazioni in maniera corretta. Uno scenario critico che si verifica poi in una serie di casi che vanno da stamina alla leggenda del nesso vaccini autismo ancora circolante, a tutta una serie di temi, l'omeopatia, insomma tutta una serie di temi che circolano a livello popolare in maniera diciamo così per essere eufemistici, poco corretta. Mi sembra che in alcuni casi che voi trattate, c'è come per esempio quello della sostenibilità, si infila, cioè si crea un'intera filiera per cui l'informazione può partire sballata da chi la produce in termini di ricerca, viene nuovamente malmessa da quelli che fanno appunto il nostro mestiere nella trade union, e poi si scontra pure con delle opinioni diffuse nelle persone che proprio non vanno bene, no? E quindi c'è, come dire, una miscela esplosiva. Tu a un certo momento citi nella tua introduzione questa sostenibla bla, parlando di sostenibilità, che però c'è quel bla bla che vuol dire se ne parla vuoto. Sì, che peraltro voglio dire è una citazione da Engelmann, quindi da una persona al di sopra di qualunque sospetto di antiambientalismo. Però è vero che è un tema molto, chiamiamolo così, di moda, diciamo così, di moda. È un tema che ha un grande successo anche perché ha un'impronta narrativa efficace, richiama, come dire, degli scenari che sono anche di carattere letterariamente e mitologicamente molto, molto impattanti. Però questo comporta poi una diffusione di opinioni spesso fondate sul nulla, ma anche nelle cose più banali. Pensiamo all'equivoco invalso e diffuso tra il clima, il meteo, il clima e l'ambiente, che noi prendiamo spesso come sinonimi quando non lo sono affatto. E quindi c'è bisogno, essendo invece un tema di enorme importanza pratica per il nostro futuro e pratica anche nel senso socio-economico, perché decidere le cose su questi temi significa indirizzare finanziamenti, risorse pubbliche, private, e ci sarebbe bisogno, come dire, di una consapevolezza maggiore a tutti i livelli. Certo, anche di conoscenza. Ti rimballo anche te, Renato, su questa cosa, per esempio, del clima. Tu però, nel tuo capitolo, affronti un tema che è quello, è uno dei meno discussi in generale, quindi probabilmente nell'immaginario della gente è ampiamente assente, e cioè l'idea che noi abbiamo, per tutte le cose importanti della vita, che bisogna sentire le opinioni di tutte, perché l'opinione appunto generale deve formarsi sentendo le tante campane. Però tu dici attenzione, che nella scienza questo è sbagliato, è una falsa democrazia. Cosa vuol dire? Certamente, cioè? Allora, uno dei punti più importanti dell'attività giornalistica è dare voce a diverse opinioni. Sì, no? Fondamentale. Riguardo a un tema, un argomento, qualunque praticamente. Qualunque. Allora, noi siamo abituati a vedere applicata questa par condicio in giornalismo che si occupa di cronaca giudiziaria, sport, economia, politica. Certo. Invece, nel momento in cui si parla di scienza, non tutti sono a conoscenza del fatto che la scienza ha delle regole. Quindi anche il giornalista scientifico e il pubblico che ascolta l'informazione giornalista scientifico dovrebbe sapere, deve attenersi alle, non dico alle stesse regole del metodo scientifico, ma avere come punto di riferimento assoluto quelle che sono le idee della comunità scientifica internazionale. Cioè un ricercatore, uno scienziato, quando svolge una delle sue attività, viene valutato per quella che è la sua ricerca da quello che si dice con il metodo della peer review. Cioè c'è un metodo tra pari con il quale il ricercatore sottopone a suoi pari la sua ricerca, e se la ricerca rientra all'interno delle regole che si è data alla comunità scientifica, viene accettato, viene convalidato, oppure viene rifiutato, messo in discussione. Certo. No, dicevo, cosa che non può avvenire, non è analoga assolutamente in altri campi, perché, non so, un critico d'arte può svegliarsi una mattina e dire: secondo me Raffaello è il primo pop artist nella storia dell'arte, no? È simile a Andy Warhol. È una tesi assolutamente estrema, però se ne può assolutamente discutere, perché non c'è di mezzo un esperimento, no? Ma invece negli altri campi, se uno dice, ma anche quelli di tipo tecnologico, se io dico questi pneumatici della sua automobile sono diventati pericolosi, non è che c'è un'altra opinione di qualcuno che dice ma no, secondo me vanno bene. Ci sono dei test, no? Assolutamente, sono dei metodi. Cioè, certo, vengono applicate delle regole, e queste regole vengono condivise da tutti quelli che si occupano di questi argomenti. Certo. Quindi in particolar modo da comunità scientifica. Invece se vediamo, ad esempio, casi di giornalismo che c'è più vicino, che ne so, per dire il caso dell'omicidio Meret Chester, riguarda la cronaca giudiziaria, no? C'è un'accusa, c'è una difesa, ognuno dice la sua, cerca di portare acqua al proprio mulino, e poi c'è un giudice. In realtà il giudice, tra virgolette, nel campo della scienza è la comunità scientifica che si è data queste regole, attraverso le quali vengono valutate le ricerche. Ecco, Marco Ferrazzoli, questo problema è esploso con la vicenda Staminali, perché lì l'attenzione al fatto che ci siano degli esperimenti per capire cosa c'è dentro una pozione proprio è scomparsa. La vicenda di Stamina, alla quale non a caso abbiamo dedicato anche la copertina con un attack cloud che raccoglie lessico, diciamo, di frequenza con il quale viene definito Vannoni. Che Vannoni è il personaggio che stava dietro quell'operazione, no? Promotore di Stamina, diciamo così, che ha recentemente patteggiato per la vicenda, è il più emblematico, perché in questo caso il ruolo dei mediatori, cioè dell'informazione, in particolare delle Iene, che dedicarono una lunga serie di puntate a questo metodo presunto, mai promuovendolo direttamente ed esplicitamente, ma di fatto però facendolo, determinò scelte politiche e giudiziarie, nel senso che questo metodo, bypassando un po' i normali protocolli di sperimentazione, fu applicato, testato e provato in diverse situazioni. Ecco, che le scelte anche non diciamo scientifiche, ma addirittura della sanità, debbano dipendere dall'enfasi di una trasmissione televisiva, di un articolo di giornale, capiamo bene che è una cosa che fa correre un brivido lungo la schiena. Ecco, cioè dobbiamo dire che è pericoloso, cioè non è solo una cosa sbagliata, attenzione che può essere... In questo caso è un pericolo proprio reale. Reale e materiale, sia sul piano fisico che sul piano, come dire, anche emotivo, perché poi ci sono migliaia e migliaia di persone che vengono trascinate perché hanno quei problemi in una vicenda che poi... Detto ciò, poiché noi non vogliamo dire che i ricercatori hanno ragione, i giornalisti hanno sempre torto, il pubblico ha sempre torto, va anche detto che il protocollo e la filiera pluriennale, a volte pluridecennale, che passa tra la ricerca di base e la sua applicazione terapeutica o farmacologica, motivatissima da un punto di vista scientifico, però confligge con un modello culturale, quello del 2.0, chiamiamolo così, secondo il quale noi pensiamo di potere e dovere avere sempre una risposta immediata a tutto. E qui lasciatemi dire, me lo prendo io come responsabilità, anche in una vicenda come quella di Stamina, noi abbiamo visto pure da parte dei ricercatori una serie di comunicazioni che dicevano effettivamente delle cose importanti, delle cose vere, però sottovalutavano troppo il modo di pensare di chi non è addetto ai lavori, e quindi erano troppo tranchant, troppo brutali, e quello non ha certamente agevolato la comunicazione. Allora, Parola di Scienziato è questo testo appena uscito, La conoscenza ridotta opinione, a cura di Francesca Dragotto, Marco Ferrazzoli, con tanti capitoli che trattano un po' tutte le grandi vicende, i vaccini, appunto le questioni come Stamina, il bosone di Higgs, e c'era qui con noi anche Renato Sartini, che ha trattato il tema del riscaldamento generale. Renato e Marco, grazie e buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Buona settimana a tutti e a tutte. Se siete affetti da meticolosi ossea o rinite maialata, andate al blog di Möbius sul sito della radio, perché c'è un'opportunità buona per tutti voi. Ancora buona settimana.